finale del Kefart Festival. Allora, volevo ricordarvi che avete alle vostre spalle un gazebo dove potete insomma dissetarvi, dall'altra parte uno stand dell'Università di Palermo e poi c'è il body painting, questa novità di quest'anno che vi dà la possibilità, se avete voglia e piacere, di farvi dipingere, farvi pitturare insomma una parte del corpo, quella che più vi piace, con una fantasia a vostro piacere. Il programma di questa sera prevede, oltre al piccolo spettacolo che abbiamo avuto modo di gradire qualche minuto fa, l'esibizione di 3 band. Iniziamo quindi subito con la prima. Vi volevo ricordare che siamo in diretta radio su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, sui 101.4 e su internet all'indirizzo www.crmpradio.it, dal quale potete tranquillamente da casa, se avete degli impegni dovete andare via, seguirci in audio e in video, perché c'è una videocamera che vi dà la possibilità quindi di seguire tutta la manifestazione rigorosamente in diretta. Ringraziamo poi anche subito gli amici di Cefalù News e l'altra Cefalù, che vi daranno poi la possibilità di guardare tutte quante le fotografie dell'evento. Iniziamo con la band appunto di cui vi ho anticipato, che ha vinto questo primo contest Kefart Festival ieri sera, ha avuto un grandissimo successo. Loro vengono da Castelbuono, un paese nelle Madonie davvero molto bello. Abbiamo con noi Marcello Napoli, Giuseppe Mazzola, Mirko Mazzola, Walter Mogavoro e Antonio Pupillo. Loro sono i Deep Black Seas, hanno recentemente inciso un album negli Stati Uniti d'America, esattamente a San Francisco. Sono stati contattati da un'importante etichetta discografica e questa sera sono qui al Kefart Festival per farci ascoltare il loro progetto musicale. C'è anche un banchetto vicino al gazebo delle birre, dove eventualmente, se avete voglia e piacere, per sostenere la loro musica e il loro impegno creativo, acquistare un loro CD che peraltro è stato registrato a San Francisco. Quindi ufficialmente inizia la serata finale del Kefart Festival. Dopo, nell'intervallo, parleremo anche di quelli che sono gli appuntamenti previsti per domani, giornata conclusiva. Nel frattempo vi auguro una buona serata e un buon ascolto. A dopo, grazie. Thank you. Buonasera, noi siamo i Deep Black Seas. Il prossimo pezzo si intitola Soul Freedom. Il prossimo pezzo è l'ultimo, se possiamo. da Toli Samuele è qui sotto il palco. Questa è una cover. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna o forse no, e sveglia mi guarda. So, già l'odore della terra, odor di grano, sale da giù verso me. È la vita nel mio petto, batte. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare. È leggero il mio pensiero. giusto questo. No, forse meglio là. Facciamo un bel applauso forte per The Black Seas. Da Castelbuono hanno registrato un album in America ultimamente, che trovate anche al Gazebo se avete piacere di acquistarlo. Insomma, contribuite economicamente alla crescita di questa band che vale veramente tanto. Dov'è la chitarra che hai distrutto? L'hai distrutta? Dov'è? Adesso lì c'è la camicia per pazzi che ti aspetta qua fuori. Allora, di Black Seas, ricordo, allora abbiamo Marcello Napoli, basso, Giuseppe Mazzola, batteria, Mirko Mazzola, tastiere, Walter Mogavero, chitarra, e Antonio Pupillo alla chitarra, sempre tutti quanti insomma collaborano poi con i cori. Il loro MySpace è www.myspace.com/deepblackseas. Io volevo chiedere anche a qualcuno di loro il significato di questa parola. Vediamo se c'è Walter oppure Marcello, insomma ragazzi, uno di voi. Walter, vieni qua, è un po' stanco perché dopo questa performance, alla fine di ogni esibizione c'è sempre questa adrenalina. Il significato di questo nome di questo gruppo? Ma tu lo sai che odio parlare, figlio. Vabbè, ma fai una un'eccezione questa sera. So che c'è dentro ancora l'adrenalina che senti, no? Però dai, una brevissima descrizione. No, è libera scelta, ognuno può intendere ciò che vuole. Vabbè, te ne esci in questo modo, vabbè. Allora, fra pochissimo avremo un'altra band. Sì, un applauso ci sta, facciamolo, dai, così ci scaldiamo anche, che stasera c'è freschetto. Allora, Cave Art Festival, la quarta edizione, come anticipato, come più volte ricordato, siamo in diretta radio su CRMP Radio. Colgo l'occasione per salutare i colleghi Simone Brancato, Ida Parlavecchio, che dall'altra parte, ecco, del palco stanno trasmettendo tutto quanto l'evento in diretta, sia in radio ma anche in web TV, quindi potete seguire con una telecamera tutto ciò che accade sul palco del Cave Art Festival, quarta edizione 2011. Abbiamo un programma veramente molto intenso quest'anno. C'è stato anche un cambio al vertice del Cave Art con Maria Concetta, che poi ospiteremo, il presidente, qui con me per parlare un po' di questa edizione. E il programma invece per quanto riguarda domani prevede alle ore 19 presso la Corte delle Stelle presentazione del libro Britney canta Manson e altri capolavori con Gabriele Marino, quindi avremo l'opportunità di conoscere questo nuovo autore. Poi alle 20 concerto dei Ladri di Arance, un ensemble insomma sperimentale di jazz swing con aperitivo, tra l'altro. Alle 21 la presentazione del videoclip dei Neon Flux Vertical Stick, che presenteranno in anteprima questo singolo, questo abbinato a questo video di recente realizzazione. Alle 21:30 proiezione di Indian Flow, Appunti di viaggio in India di Giuseppe Petruzzellis, e alle 22:30 Super Stereo Plays Cave Art Be There or Be Square, una serata in vinile, questi dischi che una volta si usavano e che adesso purtroppo sono stati superati con gli MP3, però è bello anche collezionarli e ogni tanto tirarli fuori ed utilizzarli, quindi con Davide Cesare, Gabriele Marino, Marco Iacono e Mirko Andreassi. Quindi tutto questo domani, che sarà poi l'ultima serata di questa bellissima manifestazione che ci auguriamo sempre con tanta forza di poter rivivere nuovamente l'anno prossimo. Ma so che i ragazzi dell'associazione Fuori Orario, alla quale vorrei dedicare un vostro caloroso applauso, ho detto caloroso? Ecco, ok, che stanno lavorando, insomma lì c'è il banchetto della birra e con altre bevande se avete caldo, poi c'è un banchetto, uno stand dell'Università di Palermo con dei gadget, tra l'altro l'amico Nicolo Pizzillo ha realizzato questa idea davvero molto interessante, quindi se avete il piacere di acquistare un gadget dell'Università di Palermo potete benissimo farlo anche questa sera, e poi lo stand con il body painting dove avete l'opportunità di farvi dipingere il corpo con insomma fantasie che più vi piacciono. Prossimo gruppo previsto sono gli Hank, loro vengono da Palermo, una band che abbiamo conosciuto all'interno di Rock Revolution, il programma radiofonico che il sottoscritto conduce ogni venerdì sera dalle 21 a mezzanotte su CRMP Radio, un programma dedicato interamente alle band emergenti, quindi con degli special, delle interviste, è un programma che dà l'opportunità insomma alle band come quelle che abbiamo visto stasera, ma anche band già affermate, di farsi conoscere, di promuovere il loro progetto musicale. Quindi ogni venerdì dalle 21 alle 23, c'è anche un sito, se mi permettete colgo l'occasione, è www.rockrevolution.it. Parlavamo degli Hank, loro si definiscono come genere alternative pop punk, come già detto vengono da Palermo, vi ricordo molto volentieri il loro MySpace, che è myspace.com/hankpa, quindi la sigla insomma della provincia, e il loro sito internet è hank.blogspot.com. Suoneranno Francesco Pintaudi, Claudio Gambino e Agostino Financo Burgio. La band è nata nel 2008, il nome è un omaggio allo scrittore Charles Bukowski, che è una fonte di ispirazione del progetto di numerosi brani, tra l'altro. Nel 2010 esce il primo EP, Piedali, sotto l'etichetta 800A Records, la stessa dei Wens e Pan del Diavolo, che recentemente hanno avuto ottimi riscontri da parte del pubblico in tutta Italia. Gli Hank hanno collezionato tra l'altro tantissime ottime recensioni da diverse famose webzine come Rock It, Nerds Attack, Rockambula, Sentiere, Ascoltare, Mescalina, Sound Magazine e così via, e anche Rock Revolution. Colgo l'occasione, c'è stata una bellissima recensione. Quindi stasera sono qui, suoneranno per una quarantina di minuti. Il loro sound è molto particolare, innovativo oserei dire, e quindi non voglio continuare a parlare troppo. Diamo ancora qualche minuto ai ragazzi per preparare gli strumenti, magari invitiamo la regia a passare un piccolo sottofondo musicale, e vi auguro un buon ascolto e ci vediamo dopo come sempre. Grazie. Triste poco pop per fare l'eremita, sulla terra c'è la vita, meglio fare l'eremita. Molto triste poco pop giocare col mio pene, ho scoperto che le aliene sono tutte gran puttane. Bradipo per sistemare tutto, Eva Beta mi ha lasciato ed ho il cuore molto secco. Molto triste e poco pop, se l'amore è cieco, preferisco la mia vista che rischiare con un buco. Molto triste e poco pop, molto triste e molto pop, molto artista molto pop, molto artista poco pop, molto triste e poco pop, molto triste e molto pop. Artista molto pop, come artista molto pop. Poco può pensare al mio futuro, la mia unica ambizione è di non essere nessuno. Se la gente non mi piace non sarà un problema, preferisco alla tristezza un ricambio di aria nuova. Molto triste e poco può ricorrere alle mani, se si usano soltanto per ricorrere ai colori. puoi fare o mangiare a un topo, un serpente in un boccone. Scriverò una canzone lunga 36 minuti. Soldatini che poi se ne andranno a parti complessate dalla linea, si sentivano deformi, si sentivano deformi. Fiori rossi, giocherò dottore con tutte le vecchie dei paesi, userò cordeli basso come filo interdentale, comprerò dei pesci rossi che li vendono già morti. Grazie mille, un po' più di batteria in spia, per favore. Deluso già abbastanza, lui che in ogni evenienza saprà sempre che ascoltare. Esce sempre solo anche la sera, non si sa se poi ritorna, tutto è sempre in breve. Dove siamo stati in questo tempo? In continuo movimento, e quell'angolo di strada, come dicevamo noi, veramente bello e sottovalutato. Tasca non c'era mai abbastanza, neanche per la dipendenza, e crollava anche la stanza. Sempre disponibile agli amici, con un'anima sensibilmente esposta quando basta, per cadere e poi salire, consolare e risalire, una cessa anche per me. prossima è una canzone d'amore che non nasce dal cuore, ma da un'altra parte del corpo che inizia sempre con la C. Il prossimo è un pezzo hawaiano, potete iniziare a indossare collane a fiori o camicia se ne avete da vendere al batterista che ne cerca una da 2 settimane. 10 euro, 15, no? Sento addosso il peso di parole che non hanno preso vita. Con lo sguardo si capiva tutto, lo sguardo si capiva tutto. Nei miei passi lenti per tornare a casa avevo ancora in mente quelle sere con gli amici intorno, quelle sere con gli amici intorno. Non avremo mai un altro rifugio che non sia felicità illusoria. E passa in un momento, passa in un momento. Vissuti al freddo nelle ossa, alla solitudine che fine agosto ci ha portato a cena, ci ha portato a cena. Solo vestiti inutili ricoprono il mio corpo ancora vuoto, la mia anima non sento più, la mia anima non sento. Sputo di un sorriso che riflette i nostri giorni, nei momenti senza peso, nei momenti senza peso. C'è chi dice che è importante, c'è chi lo svende per niente, ma qualcuno me l'ha detto, stai tranquillo, se ti sbatti prima o poi ce la farai, hai una bella eremoscia. Maledetto, cosa ha detto? Ancora io risento di quel trauma infantile, la maestra mi picchiava perché non sapevo dire quella maledetta lettera di merda, e ancora mi sforzo di scrivere canzoni senza quella consonante, quella maledettissima consonante, quella maledetta consonante, quella maledettissima consonante, quella maledetta consonante. fate 25 proprietà. Così da non pensare più all'assegno della SICAE. Non sono un francese, non mangio mai al cinese, non amo le persone, i loro eroi che presuntuose, e vivo con fatica, la gente compiaciuta che si sente viva solamente quando si usa. Ancora io risento di quel trauma infantile, e adesso quando parlo sto sempre bene attento, leggo sulle parole, in base al mio tormento, una questione di principio, non mi sento affatto pazzo. Un punto, un nuovo taglio di capelli, ricominciare fuori sincro, andare avanti con il tempo, ricominciare da Bologna, comprare un disco di hip hop, ricominciare da atti pubblici, finirli sempre in luoghi osceni, partecipare ad un concorso di cucina improvvisato sul metro. Partecipare ad un concorso di cucina improvvisato sul metro. Come mai non so come Grazie. Il prossimo potete trovarlo su YouTube oppure sul nostro disco chiedendolo a noi dietro il palco appena finiamo. Sono 6 pezzi, costa solo 85 euro. Questo è per tutti voi. Mastercard. Dalla forma della faccia della gente alla domenica si chiedeva perché la gente lo fermasse per strada, per chiedergli perché la gente ti ferma per strada. Osservava le panchine per le strade, gli piacevano tantissimo, in particolare una così bella, le mancava solo la parola. Osservava topi, monti, pori, sorti solo per vedere la partita. Tutti i cani castrati lo vedevano con simpatia, ma le madri dei cani castrati non avevano nipoti. Aumentava la paura di essere un bambino retromarcia. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Nel palinsesto dell'amore c'era scritto solo amore la domenica. Nel palinsesto del suo cuore c'era disegnata un'erezione, che la mattina si fattiva quando ancora il caffè è troppo lontano. Io lo prendo con la mano, metto su qualcosa che mi faccia stare meglio, ma il telefono che squilla, devo andare a pranzo fuori. Doppio occhiale nero per le occhiaie che rimbalzano per terra. Neanche fossi cieco con questi occhiali, io non vedo neanche l'erezione di cui si parlava un attimo fa. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Non sei responsabile delle tue azioni se le fai di domenica. Salutiamo con l'ultimo pezzo. Speriamo lo canticchierete domani mattina in spiaggia con i vostri riastrelli, i vostri secchielli e le collane a fiori di prima. userei in tutte le mie frasi, tra parentesi una citazione, per poter dire qualsiasi cosa, facendo finta che non sia mia. Userei i cappotti di legno per proteggermi dalle mosche che si abituano troppo presto agli open bar sui marciapiedi. Ma le mie scarpe non mantengono le accordature aperte, e adesso dormo tutto il giorno in fase REM con Michael Stipe. Autoblu senza il biglietto, e a soli nel gabinetto. Ma le mie scarpe non mantengono le accordature aperte, e adesso dormo tutto il giorno in fase REM con Michael Stipe. Ma le mie scarpe non mantengono le accordature aperte, e adesso dormo tutto il giorno in fase REM con Michael Stipe. Ma le mie scarpe non mantengono le accordature aperte, e adesso dormo tutto il giorno in fase REM con Michael Stipe. A dire il vero, non ho sentito un applauso caloroso come mi aspettavo per gli Hank. Vabbè, diciamo quasi, dai. Sono anche dei cani in amore qui davanti, una cosa bella, un'atmosfera romantica per loro. Allora, Kefart Festival, quarta edizione 2011, siamo sul lungomare, l'avrete notato, una bellissima serata, siamo in diretta radio su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, in audio video streaming, quindi potete chiamare i vostri amici, i vostri parenti che stanno anche all'estero magari, e invitare loro a seguire questa manifestazione su internet. Tra pochissimo sul palco l'ultima band di questa sera, io l'ho pronunciata, ho pronunciato il nome di questa band nel modo sbagliato, spero di non cadere nello stesso errore. Wines, ho detto bene? Oh, che bello, i Wines, facciamo un applauso per i Wines da Palermo. Questa sera ci faranno sentire l'ottima musica, veramente siamo tutti quanti contenti, anche i ragazzi al bar che stanno lavorando sono entusiasti. Forza Palermo, come dice l'amico. Bene, allora parliamo un po' dei Wines, iniziamo con il loro MySpace, che è www.myspace.com, questo ormai lo sapete, /3wines, scritto W-A-I-N-E-S, sito internet freewines.org, eccetera, eccetera. Allora abbiamo questa sera con noi Fabio Rizzo, chitarra e voce, Roberto Cammarata, chitarra e voce, e Ferdinando Piccoli, batteria e voce. Loro suonano assieme già dal 2007, forse anche un po' prima, comunque 2007 è il primo EP, dal 97 mi suggeriscono, pensate un po', un bel po' di anni. Nel 2007 il primo EP con Controversial Here Playing, poi il 2011 l'LP Sto, nel 2009 è invertita la data, comunque l'LP Stu, non so se è un errore della redazione oppure effettivamente è Sto e Stu, è così, perfetto. Allora, Stu, dal quale poi viene estratto anche Let Me Be, il cui video ha vinto il premio Peevee 2009 per la miglior regia al MEI, al Festival delle Etichette Indipendenti. Alcune informazioni generali: hanno aperto il concerto da artisti molto importanti come Gogol Bordello, Joe Louis Walker, Blue Vertigo, After Hours, Bob Geldof e Carmen Consoli all'Italia Wave Love Festival e Architecture in Helsinki all'Ipsy Rock a Castelbuono, gli amici di Castelbuono che salutiamo con tanto affetto. Va bene, ormai sembra essere quasi tutto quanto pronto, quindi volevo invitare il presidente dell'associazione Fuori Orario a raggiungermi sul palco per una piccolissima conclusione di questa manifestazione sul lungomare, anche se sappiamo che poi domani ci saranno diversi appuntamenti nel Corso Ruggero che vedranno insomma l'alternarsi fra arte e musica. E quindi Maria Concetta, presidente dell'associazione Fuori Orario, questa è una cosa improvvisata, quindi ti invito velocemente a raggiungermi sul palco del Cafe Art, che purtroppo questa sera conclude. Eccomi, sta arrivando, perfetto. Volevo invitarvi ancora a visitare il sito dell'associazione Fuori Orario, questa associazione che ogni anno è un gruppo di ragazzi tutti quanti giovani, si dà tantissimo da fare per realizzare delle manifestazioni a Cefalù, non è facile per tanti punti di vista. Non vogliamo qui far polemico, insomma parlare di politica, però loro sono riusciti, già dal quarto anno riescono con grandissimo successo. Allora Maria Concetta, quindi ne abbiamo già parlato la scorsa ieri sera, questa è stata una bella manifestazione, tantissimo pubblico, ogni anno sempre di più. Sì, infatti come ieri sera insomma siamo abbastanza contenti del risultato insomma ottenuto, questa sera c'è ancora più gente, siamo contentissimi, questo è veramente il risultato del lavoro che abbiamo fatto quest'anno, ma soprattutto anche in questi anni. Come ho detto prima, sto morendo. Tu queste cose improvvisate mi chiami. E insomma, come hai detto anche tu prima, noi in questi anni abbiamo fatto un lavoro che cerca sempre di crescere, di veramente raggiungere l'obiettivo, che è quello di coinvolgere sia la cittadinanza ma soprattutto i giovani, ed è quello anche di dare un'alternativa, come dicevamo prima, sia per la nostra cittadina, ma soprattutto questa sera riflettevamo sul fatto che uno degli obiettivi che noi cerchiamo sempre di portare avanti è quello di portare veramente la cultura dell'arte, degli artisti e della musica, perché noi cerchiamo sempre di fare esibire dei giovani artisti che hanno veramente la possibilità, grazie a delle associazioni che ogni giorno si impegnano all'interno del territorio, di farli crescere anche, quindi di fargli fare un'esperienza. Assolutamente. Allora, grazie Maria Concetta e al lavoro subito per il prossimo anno, mi raccomando. Sì, io, visto che questa è la penultima serata del Cafe Art Festival, vorrei nuovamente ringraziare l'associazione Fuori Orario, tutti i ragazzi che veramente da tanto tempo stanno lavorando per ottenere poi questo risultato. Ricordo che fino a domani ci sarà alla Corte delle Stelle la mostra di Igor Scalisi, e insomma ringrazio poi ovviamente l'Università degli Studi di Palermo e il Comune di Cefalù per averci aiutato e per darci ancora quest'anno alla quarta edizione l'opportunità di potersi non soltanto esprimere noi, ma di far esprimere tutti i ragazzi che sono saliti non soltanto sul palco, ma quello che abbiamo visto durante questa settimana. Quindi ringrazio un po' tutti e buona serata ancora, continua il Cafe Art Festival 2011. Grazie a tutti, buona serata. Bene, bene, un bel applauso per l'associazione Fuori Orario, facciamolo sentito, dai ragazzi, perché è una bella cosa questa manifestazione ogni anno. Allora, sembra essere quasi tutto pronto, chiaramente ringraziamo, perché poi andrò via e non mi vedete più per fortuna, salutiamo e ringraziamo le forze dell'ordine, tutti i ragazzi della sessione fuori orario, l'Università di Palermo, gli artisti del body painting, appuntamento a domani nel Corso Ruggero per la presentazione del videoclip dei Neon Flux e altri video molto interessanti, quindi comunque cultura a 360 gradi con l'associazione Fuori Orario. Abbiamo parlato un po' di tutto, quindi buona continuazione, grazie ancora e viva Che Fart Festival. Buonanotte. Way check, check. La sua spia è... Permetteremo anche al batterista di sentire qualcosa. E continueremo con la nostra musica ignorante. Questi sono i Wines da Palermo. Un applauso. È muta. Questi sono. Why? Perché? Why? Stava arrivando qualcosa. È arrivato. No, stava per. C'era. Non c'è. Why? Cambio gomme. Pit stop. Il nostro batterista si è innamorato di quella spia, la vuole qui, perché funziona, esce qualcosa. Check. Yeah. Si chiama Harsh Days, giorni complicati, come direttamente dal nostro nuovo disco che si chiama Sto, a differenza del precedente che si chiama Stu. I fan lo sanno, pochi nascosti fra di voi, pochi. Harsh Days. We'll be right back. Prendete la macchina del fumo, per favore. Che sto male. Grazie mille, estate 2011. Gente positiva, si dice da qualche... Ok, il prossimo brano introduttivo. Che il pubblico protesta perché bevo i liquidi sbagliati. Questo è un brano che introduce il nostro vecchio disco, che è il nostro primo disco, quello col cammello in copertina. Questo è il primo pezzo di quel disco. I pochi fan nascosti fra di voi sanno qual è. Shout! Dankeschön, Dankeschön. Che il prossimo pezzo lo dedichiamo a tutti i tedeschi presenti in sala, che secondo me ci sono. Tutti i tedeschi, tutti i portoghesi. Non avete pagato, siete tutti portoghesi. Il prossimo non è un pezzo elettronico e nemmeno elettrico, no, elettrico un po' sì, è soprattutto un pezzo telematico che si chiama Server. Grazie assai! Vi meritereste le bottiglie di champagne a molo all'acqua, lo faremo. Un paio di pezzi ancora e poi tutti in acqua con lo champagne. Let's get away, you check, you check. We'll be right back. soon as possible. Takes me every 5 minutes. Be traceable. It never easy to get what we need. I need to get exactly what we need. It's not so easy to even open the door. Where you down to? We can handle it. Open the door. What you gonna do? We're gonna let it. freakers on the beat. But she did her best to make me feel weak. Well, I take top honey, she and for money. 2, 3, 4, I got on the road. All of her treats give me come and see. I can't stop singing, watch her. Did I buy it? Ok ragazzi, noi ci avviamo alla fine, che sennò poi ci arresti. L'ultimo e tiriamo. Ci hanno già arrestato troppe volte quest'anno, quindi non possiamo rischiare oltre. Ci sono i CD insieme a quelli dei Deep Black Seas là da qualche parte, altrimenti voi li chiedete a noi. Grazie al Kefart Festival, alla prossima. Questi sono i Wines, questo è Time Machine. Grazie, ciao.